Euro Reportage. Garanzia Giovani, il piano europeo per la lotta alla disoccupazione, di Anna Marino. Posto fisso? Lo stipendio tutti i mesi? Le ferie pagate? Un continuo pedalare a perdifiato alla ricerca del lavoro per i giovani europei. E la strada da percorrere va anche oltre quel miraggio di un posto fisso che non c'è più, perché il cambiamento del mercato del lavoro è definitivo, in Italia come in Europa, soprattutto nel dopo Brexit. Su questa strada nasce In bici senza sella, un'idea del produttore Alessandro Giugioli, un film composto da 6 episodi accomunati dal tema della condizione precaria dei giovani di oggi. Il film sarà nei cinema dal prossimo 3 novembre e la nostra Marta Cagnola ha chiesto ad Alessandro Giugioli come racconta la fatica di pedalare dei giovani europei. Io sono stato 3 anni a Londra, 4 anni fa, e sono tornato qua in Italia con l'idea di vedere che cosa succedeva. Con tutti i miei amici mi dicevano: sei pazzo a tornare in Italia. In effetti, tornato in Italia all'inizio, ho visto il panorama, era abbastanza, diciamo, come se ci fosse un muro di gomma che non consentiva agli sconosciuti di arrivare poi alla fine a fare un film al cinema, nonostante poi la bravura e il talento di tutti. E quindi abbiamo pensato di parlare di precariato, che poi era l'argomento, diciamo, di attualità più importante di tutti, e raccontarlo però dal nostro punto di vista, che siamo precari, per cui con la licenza di riderci sopra, di trattarlo in maniera ironica. Nessuno si deprime, assolutamente, siamo ironici e soprattutto siamo quella generazione abituata a pedalare senza riuscire mai a sedersi, perché come ti riposi sei finito. Ne ha parlato tanto anche la stampa straniera, ho guardato anche la rassegna stampa sul sito, sulla pagina di Facebook del film, ne ha parlato la stampa straniera. Tantissimo, il Guardian, Financial Times, ANSA Brasile, ma perché innanzitutto il problema del precariato credo sia un problema globale al momento. E poi io ho mandato email a tutti, come si fa, sai, proprio la piccola formichina, dicendo: ma mi aiutate, mi potete supportare? E abbiamo ricevuto alcuni di questi dei grandi aiuti. Ci abbiamo Colin Firth, Stanley Tucci, che ci ha dato anche lui le foto. Colin Firth perché gli interessava, poi in questo momento particolare in cui è passato il Brexit, parlare un po' di Europa e giovani, che è un tema che a lui sta molto a cuore da sempre. Ha oltretutto un figlio che ha circa 23-24 anni, per cui la problematica la vive veramente in modo diretto. E oltretutto a cercare di capire, perché fino ad oggi la cosa assurda è che per gli italiani, una volta laureati, l'estero quasi per tutti, l'80% era Londra. E adesso che invece si stanno iniziando a percepire i primi cambiamenti, con queste specie di liste di proscrizione che vengono chieste alle aziende su quanti lavoratori stranieri avete, insomma, io non so noi italiani adesso dove andremo a trovare altre chance lavorative. Così uguale per gli inglesi che invece vogliono venire in Europa, che saranno sicuramente, io non credo che gli verrà fatta una cortesia all'Inghilterra di rimanere fuori con un piede fuori e un piede dentro. Credo che come esempio useranno proprio tutti i mezzi per far capire che se esci dall'Europa sei fuori in tutti i sensi, e quindi credo che proprio per i giovani inglesi anche si creerà un enorme problema lavorativo, perché poi non è che Londra di per sé assorbe tutto il lavoro che l'Inghilterra ha, insomma. L'Europa però tende la mano, e come è avvenuto nella famosa fotoritratto dello scambio di borraccia tra Coppi e Bartali, cerca di dissetare i giovani ciclisti con strumenti e fondi per aiutare il loro percorso verso l'impiego. Tra questi c'è Garanzia Giovani, il piano europeo per la lotta alla disoccupazione per ragazzi tra i 15 e i 29 anni, che prevede finanziamenti per i paesi membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, perché il problema non demorde in Europa, anche se si attenua. Secondo i primi dati usciti a ottobre sull'iniziativa nata nel 2013, 3 anni di Garanzia Giovani hanno dato un'opportunità di lavoro e di formazione a 9 milioni di giovani europei, contribuendo a ridurre il tasso di disoccupazione giovanile dal 24,4% nel 2013 al 18,9% nel 2016, e quello dei NEET, né occupati né studenti, dal 13,2% del 2012 al 12% nel 2015. Bruxelles è soddisfatta dei risultati e per questo ha deciso di rifinanziare Garanzia Giovani con altri 2 miliardi di euro fino al 2020. Ma in Italia resta l'arsura, con un problema di disoccupazione per i giovani 4 volte tanto quello degli adulti. E qui, a dimostrazione della fame e della sete di lavoro di giovani, in Campania per esempio è stato un boom di adesioni e di interesse, come in Sicilia. Ma si discute sui risultati finali della Garanzia Giovani, al di sotto delle potenzialità e delle risorse impiegate, ben 178 milioni di euro sul piatto, secondo l'onorevole Giovanni Lavia, presidente della Commissione Ambiente, che ha verificato i numeri sul territorio territorio insieme alla delegazione della Commissione per il controllo dei bilanci. Il bilancio è sicuramente positivo. In alcuni paesi del centro nord Europa si è arrivati a passi di successo misurati in termini di occupati rispetto ai soggetti coinvolti dell'ordine del 70%. Non si può dire altrettanto del successo della misura in Italia, perché i tassi di successo sono sensibilmente più bassi e soprattutto nelle regioni più povere, il Mezzogiorno d'Italia, in Sicilia, i tassi di successo sono veramente bassi. Abbiamo fatto una missione con la Commissione di controllo di bilancio in Sicilia, abbiamo riscontrato tassi di successo medio del 13%, significa che su 100 ragazzi coinvolti e avviati attraverso la garanzia giovani al mondo del lavoro, solamente 13 hanno avuto poi un esito occupazionale positivo. Questo significa che per 100 abbiamo pagato delle risorse, ma 13 continuano a camminare con i loro piedi, mentre invece altri 87 sono rimasti per la strada, e ovviamente per questi non abbiamo costruito un percorso positivo. Perché? Perché il sistema imprenditoriale è debole, utilizza questi giovani per avviarli al mondo lavorativo e per farli collaborare nei processi produttivi, ma poi non li stabilizza dopo, perché o non ne ha le forze o individua questo strumento come uno strumento di integrazione lavorativa a basso costo. Questo significa che la prossima edizione, che partirà a breve, visto che l'Europa ha rifinanziato l'intervento e la misura, l'approvazione del bilancio in questi giorni sul piano europeo, quantomeno in Parlamento, ci dice che questa linea rimarrà e verrà rafforzata. Bisogna fare meno formazione aggiuntiva e più formazione sul lavoro, meno aula e più attività concreta in azienda. E bisogna selezionare con più attenzione le aziende. Ogni paese membro ha i suoi siti internet per aderire. Basta cliccare per l'Italia su www.garanziagiovani.gov.it o sui portali regionali, oppure andare direttamente nei centri per l'impiego, perché accanto al piano nazionale ogni regione ha il suo piano attuativo. Dopo l'adesione, entro 60 giorni, la regione che avrai scelto ti contatterà per indirizzarti a uno sportello dei servizi per l'impiego, dove concordare un percorso personalizzato per l'inserimento lavorativo di formazione professionale. Entro 4 mesi dal momento della stipula del patto di servizio verrà offerta una misura in linea con il profilo. Come in Sicilia, nell'ultimo anno sono stati quasi 8.000 nell'isola i ragazzi che hanno firmato un contratto a tempo determinato o indeterminato grazie al bonus erogati dalle aziende che hanno stipulato un contratto di lavoro con chi aveva svolto un tirocinio, cioè uno stage in impresa. Ci sono le eccezioni ed ecco che cosa succede se Garanzia Giovani viene utilizzato correttamente, come racconta la siciliana Maria Elena Nicotra. Per me Garanzia Giovani è stata un'esperienza assolutamente positiva. Ho iniziato questo percorso tramite un contatto con la startup italiana Orange Fiber. L'azienda ha creduto in me e io ho fatto lo stesso. Sono stata inserita a tutti gli effetti in azienda con un contratto a tempo indeterminato e oggi lavoro per Orange Fiber e mi occupo dei social come social media specialist. Ho conosciuto l'azienda in occasione del lancio di una campagna di crowdfunding e su piattaforma Team VK. Da lì abbiamo fatto delle piccole collaborazioni occasionali in affiancamento con una sia di comunicazione esterna. Nel frattempo ho lavorato sulla mia formazione per accedere al programma Garanzia Giovani e percorso che si è concluso con successo, perché ho affrontato i 6 mesi di tirocinio all'interno di Garanzia Giovani, tirocinio retribuito. Sono felice, lavoro con Enrica Arena e Adriana Santanocito, che sono le fondatrici di Orange Fiber, e contiamo di continuare assieme questo percorso di crescita. E dal lato delle imprese, Maria Elisa Fazio con suo fratello Flavio, 35 e 27 anni, hanno saputo dare un'opportunità a giovani come loro. L'esperienza è stata gratificante perché ci ha permesso di dare un'opportunità alla Sicilia. Il motivo per cui Flazio nasce in Sicilia è proprio perché io e mia sorella abbiamo scelto di farla qui, proprio perché avevamo tante opportunità in termini di talenti, di giovani che hanno fame di lavoro e che avevano voglia di dimostrare in Italia e in Europa che era possibile creare un'azienda digitale. È stato gratificante in quanto questi ragazzi hanno permesso all'azienda di crescere 3 punti ogni anno in 3 anni, quindi l'azienda ha una crescita esponenziale, perché tramite ovviamente tirocini non era possibile quindi conoscerli, perché sono delle esperienze che sicuramente aiutano l'azienda e i ragazzi a capire se diciamo questo matrimonio è fondamentale. Li avete assunti come? Tutti 10 a tempo indeterminato. Sono Calogero Milazzo e prima di questa opportunità trovata da Flazio.com ho cercato lavoro per 6 mesi dopo la laurea. Ho trovato un team molto dinamico e sono riuscito a trovare sia un gruppo che mi ha aiutato nel crescere professionalmente, sia sono riuscito a fare molte di quelle cose che speravo di fare con il mio indirizzo di studi. Io sono Dario Pritera, prima di essere assunto ho cercato per 3 mesi. Io ho studiato all'Accademia di Belle Arti. Sì, sono assunto a tempo indeterminato. Tra chi pedala e fa fatica in bici c'è anche chi riesce a sfatare i luoghi comuni del precariato. Le faremo sapere. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.